352. Umido di rigaglie di pollo col sedano. Quando alle rigaglie di pollo si uniscono i colli, le teste e le zampe, diventa un piatto da famiglia che tutti conoscono, ma quando si tratta di farlo più gentile coi soli fegatini, creste, uova nonnate, fagiuoli e anche ventrigli, purché questi li scottiate prima nel brodo e li nettiate dal tenerume, per renderlo di grato sapore delicato, potete regolarvi nella seguente maniera. Prima date un terzo di cottura nell'acqua salata al sedano tagliato lungo mezzo dito all'incirca. Poi fate un battutino di prosciutto grasso e magro e poca cipolla. Mettetelo al fuoco con burro e quando sarà ben rosolato, versate prima i ventrigli tagliati in tre pezzi, poi un pizzico di farina di patate, indi i fegatini in due pezzi e tutto il resto. Conditelo con sale, pepe e odore di spezie e quando avrà tirato il sapore, annaffiatelo con brodo e poco sugo di pomodoro conserva. Mettete a soffriggere a parte il sedano nel burro e quando sarà cotto versateci dentro le rigaglie. Fatelo bollire ancora alquanto, se occorre brodo versatecene e servitele.